Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Ecco qua, Giuliano Palma voleva cantare. Buona domenica a tutti da Stefano Gallarini. Sono le 10:10 in questo momento, in diretta dalla 76esima Fiera del Levante di Bari, fiera che resterà fino al 16 settembre. E noi siamo in diretta dallo stand della Regione Puglia e l'estate si fa sentire, grazie al cielo, ancora. Cioè, teniamocela stretta, anche perché sono giornate bellissime in tutta Italia. E sarà un po' il fatto che l'Italia è una regione, una nazione sicuramente straordinaria, bellissima da visitare, bellissima per passare le vacanze. Ci sono stati tantissimi stranieri anche quest'anno. Gli italiani però hanno scelto in molti di visitare anche l'estero, forse con la voglia di vedere altro, giustamente, perché quando si viaggia si scoprono altre cose e tanti giovani soprattutto scoprono il desiderio di andare magari a vivere da un'altra parte. E quindi oggi ho pensato di dedicare la puntata alle città del desiderio, ovvero le città dove si vorrebbe andare a vivere, dove si vedono più opportunità rispetto a quelle che l'Italia abbiamo l'impressione ci possa davvero offrire. Di questo parliamo, quindi sicuramente anche la vostra esperienza, se ce n'è stata, o semplicemente il vostro desiderio, in quale città vorreste andare a vivere, oppure in quale città avete vissuto per un certo periodo di tempo e poi così per una ragione o per l'altra avete dovuto ritornare in Italia, però volevo conoscere anche quella che è la vostra esperienza. I messaggi, come sempre, al 349-238-6666. Una di queste città, diciamo, dei desideri, dove pare che tutto sia possibile, anche opportunità di lavoro, è Berlino e ne parliamo con Fausta Filbie. Fausta, buona domenica. Buongiorno a tutti, ciao. Ecco, Fausta, vi troviamo, l'abbiamo sentita un mesetto fa, circa sempre nel riposo del guerriero, caporedattore del mensile Viaggi del Sole e Viaggi 24, anche perché è uscito il volume dedicato a Berlino, indicata, sì, Fausta, come la città più effervescente. Sì, quello che hai detto giusto, nel senso che non solo è una meta, una tra le mete preferite di viaggio degli italiani in tutte le età, perché è abbastanza vicina, collegata con voli low cost, offre alberghi, ristoranti eccetera per tutte le tasche. Ma la cosa molto interessante che abbiamo scoperto facendo il numero dedicato a Berlino è stato proprio trovare tantissimi ragazzi che hanno deciso di andarci proprio a vivere, di trovare, cercare un'opportunità proprio a Berlino. Un dato penso possa valere per tutti. Allora, a parte i capitali che vengono investiti nella città, che sono veramente pazzeschi, basta pensare da marzo a oggi 70 miliardi sono andati da tutta Europa a Berlino, ma c'è un sondaggio che dice che ogni anno aprono imprese che offrono servizi online e che le attività di startup nel 2011 hanno generato ben l'80% del PIL della città. Questo vuol dire che la maggior parte delle aziende che aprono e che funzionano sono nuove, sono aziende di startup. Questo significa un mondo di opportunità per tutti, per i giovani e per tutti in generale. Io volevo raccontare l'esperienza di una ragazza italiana che si chiama Giulia Manfredi e si dirà, ma certamente i grandi manager vanno, fanno. No, lei fa l'artista, è una ragazza che ha studiato a Bologna e che ha raccontato la sua esperienza di artista e di ragazza che è andata a Berlino e non è più tornata a casa. Ha fatto mostre, ha fatto iniziative e lei racconta la sua esperienza come un'esperienza che la accomuna a tanti ragazzi che si trovano a Berlino e hanno una miriade di possibilità. Insomma, questa città, che è stata la città più difficile dal dopoguerra in avanti, il muro, tutto quanto, nel giro di pochi anni è diventata la città più vivace e più viva di tutta Europa. Ed è bella, nel senso che hanno da quello che avevano, quindi sia all'est sia all'ovest, hanno riciclato, trasformato, cioè è una città che vive di trasformismo, per cui i vecchi palazzoni dove c'erano le case popolari dell'est, sono, penso nell'immaginario e nella testa di tutti questi palazzoni, sono diventati bed and breakfast design, gallerie d'arte, addirittura la Spree, che è questo fiume che attraversa Berlino, è come se fosse una riva del Mediterraneo con locali, piste ciclabili, ecco, spazi per i bambini. Allora, ecco. Già Fausta mi fa venire voglia di visitarla, io purtroppo mi sono ancora andato. Facciamo una cosa, ti chiedo di restare in linea, do gli aggiornamenti sul traffico e poi sentiamo l'esperienza di una persona che ha scelto di provare a vivere a Berlino. Sempre in diretta dalla 76esima Fiera del Levante di Bari, Riposo del Guerriero, tra poco risentiremo Fausta Filbie, caporedattore del mensile Viaggi del Sole, per parlare di Berlino, ma adesso c'è Francesco Giannotti al telefono. Ciao Francesco. Buongiorno Stefano, buongiorno a tutti. Eccoci qua, buongiorno a te. Allora, da Berlino proprio. Francesco, allora, velocemente la tua vita, la tua esperienza italiana, perché poi a un certo punto della tua vita hai deciso di provare Berlino. Ma allora, io sono un po' l'eccezione a Berlino perché ho, diciamo, superato i 40 anni, dopo 20 anni più o meno di lavoro, insomma, diciamo di successo, tra virgolette, perché mi occupavo di marketing e comunicazione in un'azienda americana con sede in Italia e quindi, insomma, ero abbastanza in una posizione privilegiata, se vogliamo così. C'è stato alcuni problemi, diciamo, personali, di lavoro, eccetera, che mi hanno spinto a fare un po' un reset e quindi in questo reset, superati appunto i 40 anni, ho scelto Berlino come luogo, diciamo, di non dico insomma, di residenza ancora, però di luogo in cui potevo capire se ricominciare in una forma differente rispetto a quella italiana. Quindi il motivo è stato, diciamo, questo. Ecco, non intanto da ecco, scusa se ti interrompo, intanto da un'idea di stare solo qualche mese, poi invece sono diventati molti, no? Ormai. Sì, io ho pianificato 2-3 mesetti, così tanto per conoscere la città un po' meglio rispetto ai 10 giorni del turista, insomma. Sì, sono sì. Diventati un annetto praticamente adesso. Ecco, il tuo tedesco all'inizio cos'era? Zero o già avevi delle conoscenze oppure ti sei cavata solo con l'inglese? Sì, il mio tedesco era zero assoluto, era proprio un principiante totale e quindi vivevo con l'inglese, che è comunque una lingua praticata nel 70% dei casi, quindi non è necessario vivere con il tedesco, è necessario il tedesco per lavorare, sì. Questo è anche abbastanza logico. Certo. E quindi ho cominciato una scuola, diciamo, di lingua, che si è dimostrato ovviamente abbastanza, è un lavoro in sé imparare la lingua tedesca, se hai sì. Certamente certe un minimo di ambizioni. Allora, tu dici, superati i 40, arrivati a questa importante tappa della vita, comunque ci ho provato lo stesso. Come sta andando e quali sono le prospettive? Cioè, cosa vedi in più, se ci sono possibilità? Sicuramente Fausta ci diceva ce ne sono tante, da tanti punti di vista. E che cosa ti manca? Se ti manca qualcosa, che cosa invece hai trovato e che ti piace? Allora, sì, le prospettive sono potenzialmente eccellenti, non solo per una ovvia ragione che la Germania è un paese in Europa, insomma, positivo e molto più promettente rispetto all'Italia, ma perché comunque le opzioni che la Germania dà sono ampie per tutti, soprattutto poi non basate su un discrimine di età. In Italia io vedevo questa cosa, che dopo i 40 anni il tuo curriculum viene letto con una certa, magari così, sufficienza, perché sei troppo avanti con l'età, perché hai pretese economiche magari eccessive. Qui il fattore età è assolutamente secondario. Questa è una grande qualità. Il problema della Germania può essere ovviamente quello della lingua, perché in base alla tua lingua tu puoi ambire a posizioni più o meno alte. Le persone che vengono qui e vivono senza conoscere la lingua devono chiaramente accontentarsi di lavori, diciamo, piuttosto modesti, che non c'è niente, cioè non è un problema, però è chiaro che se vuoi entrare in un'azienda o comunque decidi un percorso di un altro tipo, la tua competenza sulla lingua deve essere assolutamente di buona, parla alta qualità, questo sicuramente. Quindi differenze negative rispetto all'Italia non le vedo, in negativo non le vedo, in positivo c'è poi un clima, diciamo, un clima sociale molto più rilassato e molto più conciliante rispetto all'Italia. C'è una nevrosi sociale molto più bassa in Berlino. Devo dire però anche una cosa importante, se posso. Sì. Berlino è un'eccezione rispetto alla Germania. Ci sarei arrivato, anche con Fausta avrei chiesto proprio sì, questo. Scusa. Cioè, figurati, hai anticipato un argomento giusto, dicevi, quindi è un'eccezione. Perché è una chiave importante. importante questa, perché per esempio a Berlino sembrerà strano, ma la gente non si ammazza di lavoro, cioè non hai come a Monaco, come in altre città, il mito della iperproduttività in cui devi produrre per 12 ore, un po' come abbiamo noi in Italia, un pochino. Loro tendono di più ad avere un approccio sulla qualità del prodotto lavorato, quindi è una differenza, diciamo, culturale non da poco. I negozi qui non aprono prima delle 9:30, 10 la mattina, tanto per dare un esempio sì, un po' sciocchino, però è così, insomma. E questo è un dato interessante, perché c'è più attenzione sulla propria gratificazione quotidiana piuttosto che su altri valori, da cui deriva una certa rilassatezza collettiva. Questo, ecco, le tue prospettive, cosa pensi di fare ancora, di restare quanto tempo e di cercare cosa? Allora, questa è una domanda molto difficile alla quale io rispondo. Puoi anche non rispondere. No. Il mio obiettivo, allora, premesso che io sono un piccolo privilegiato, perché qui ho deciso di dedicarmi alla lingua straniera come lavoro full time, se vuoi. Sì. Detto questo, credo che ancora per 6 mesi io mi dedicherò a questo e poi cercherò qualcosa di analogo, se vogliamo, rispetto al mio lavoro precedente. È un'esperienza che consigli? Come dici, scusa? È un'esperienza che consigli comunque? È un'esperienza che consiglio, sì. Io avrei preferito farla magari 10 anni fa, però va bene uguale. Va bene lo stesso. Non è mai troppo tardi. Grazie, professor Giannotti. Ciao, buona domenica. Grazie. In bocca a te, al lupo, mi raccomando. Grazie. Fausta Filbier, ancora con te, siamo. E allora, riprendo un po' le parole di Francesco. È veramente un'eccezione, quindi, Berlino? Direi proprio di sì, ma io vedendo, noi abbiamo fatto tanti numeri dedicati a città europee, oltre che Stati Uniti, New York, eccetera. Sicuramente Berlino ha da un lato le opportunità di una grande città, penso a Londra, penso addirittura a New York, però il modo di vivere è quasi latino, mediterraneo, e credo sia anche per questo motivo che piace così tanto, perché unisce all'efficienza tedesca questa voglia di vivere bene, che è una caratteristica, se si vuole, più degli italiani, più degli spagnoli, ecco, più dei popoli latini. Nello stesso tempo però non dimentica di essere precisa, non dimentica il rigore che fa proprio parte della Germania, del popolo tedesco, che comunque, non dimentichiamo, ha permesso a Berlino di passare da una città divisa in due, e la parte est era veramente indietro, tra virgolette. Io ci sono stata prima della caduta del muro, ho studiato, sì, a Berlino, era veramente un altro mondo. Loro sono riusciti in pochi anni a fare quello che in tanti paesi, in tante parti del mondo, non si è riuscita a fare in decine e decine di anni. Quindi questo sicuramente è un appeal. L'altro appeal è vero, la lingua è uno scoglio, ma è uno scoglio in tutti i paesi del mondo. Cioè il tedesco può avere dei perché studiato meno dell'inglese, però è una lingua come tutte le altre che si può studiare, si può conoscere, si può parlare bene. Poi volevo dire anche un'altra cosa, è facile a Berlino passare dei lunghi periodi, quindi è possibile, a differenza per esempio degli Stati Uniti o di altri posti dove si va, avere un approccio graduale alla città, quindi cominciare ad andarci per turismo, affittare. Per esempio, una delle formule più che vanno di più, diciamo, dal punto di vista del turista, è affittare questi monolocali, questi appartamenti, sì, che costano veramente poco, nel senso che si parla di 50 euro a notte per una a testa, veramente sì, una cifra abbordabile. E in più la cosa bella di Berlino è che ha saputo trasformare, si diceva prima una città trasformista, allora tutti hanno in mente gli Ibis lungo la strada, i chioschetti che vendevano i currywurst, i wurst, quelli con la senape, per capirsi, la mostarda. Beh, sì, oggi questi Ibis ci sono ancora, si sono trasformati, ma soprattutto il cibo di strada a Berlino offre milioni di possibilità, dal sushi alla gastronomia raffinata, chi vuole oggi a Berlino trova tutto, un range di proposte infinito, anche il super ristorante stellato. Sì, ecco. Quindi tu dici, anche per quanto riguarda le tasche, è una città che le permette di essere vissuta, ci si può stare una settimana, 10 giorni per, esatto, conoscerla senza, esatto, spendere troppo. Esatto, poi un'ultima cosa perché mi sembra importante, i berlinesi dicono che a Berlino ci sono più musei che giorni di pioggia e a Berlino piove un sacco, quindi i numeri poi danno ragione a questa battuta perché sono ben 180 gli spazi tra musei, collezioni d'arte, arti moderni e addirittura 30 nuovi musei sono in arrivo, quindi l'offerta è infinita, cioè non basta una settimana, ci vogliono mesi per riuscire a vedere dai musei tradizionali che sono meravigliosi, che sono su quest'isola, si chiama Museum Insel, l'isola dei musei, che vanno dal famosissimo museo di Pergamo per arrivare fino alle collezioni di arte contemporanea e di avanguardia. Insomma, io credo che anche solo una puntata, al di là del trasferirsi e cambiare vita, e mettere il naso fuori e vedere come si può cambiare, come si può andare avanti, possa essere interessante per tutti. Ecco, quindi è una delle mete assolutamente da raggiungere. Comunque, sì. Vi ricordo I Viaggi del Sole, la monografia è proprio su Berlino, la città più effervescente, la trovate in edicola. Grazie Fausta Filbie, buona domenica. E intanto vi chiedo anche di indicare qual è la vostra città del desiderio, dove vorreste andare a vivere, magari anche in Italia, magari vivete in una città che volete lasciare e vorrete stare in Italia ma in un altro posto, quale, oppure all'estero come stiamo raccontando. I messaggi al 349-238-6666. Una delle città dei desiderio sicuramente è Parigi, indubbiamente per tantissimi motivi, non è solo la città dell'amore ma una città ricchissima dal punto di vista museale, ma anche una città dove andare a vivere, perché no? Andrea Paracchini, buona domenica, ciao Andrea. Buongiorno, buona domenica. Allora, Andrea è un giornalista freelance che da 5 anni ha deciso di andare a vivere a Parigi. Io tra poco comincerò a chiederti, ascolteremo il tuo racconto, do la pubblicità e poi tra poco con Andrea Paracchini. Sempre in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante, ma noi abbiamo così fatto un salto, almeno virtuale, a Parigi con Andrea Paracchini. Andrea, allora, perché hai scelto Parigi innanzitutto? È stata una questione di lingua, per esempio? Conoscevi bene il francese? Più o meno no, nel senso che sì, avevo fatto un'esperienza Erasmus durante l'università in Belgio, dove avevo imparato il francese. Poi avevo tentato la pista delle borse Leonardo, un altro programma europeo per andare a fare degli stage all'estero, e l'unico paese francofono disponibile era il Belgio, non c'era la Francia, quindi ho fatto domanda, ho trovato posto in un giornale francese e così, di Parigi, e così mi sono ritrovato lì. Ecco, allora, la tua esperienza parigina, se la consigli, che cosa, se c'è qualcosa che ti manca dell'Italia? Già sento che hai preso la cadenza proprio del francese, quasi non sembri più italiano. No, beh, insomma, vale essere perché sono originario del nord d'Italia, quindi ho l'accento del Piemonte, quindi. Sì, no, ah, ma okay. Diciamo che la cosa più, ci sono molti aspetti che sono particolarmente impressionanti per qualcuno che viene dall'Italia quando arriva a Parigi. Uno fra tutti, che citano tutti, comunque anche i turisti, anche gli altri italiani che conosco a Parigi, sono i trasporti. Nel senso, i trasporti parigini sono qualcosa che è veramente impressionante. Le 14 linee di metropolitana, stazioni in ogni angolo, treni che passano ogni 2, 3, 4 minuti, quando sono 5 già uno comincia a sbuffare. C'è veramente, a livello di mezzi pubblici, una città che diventa veramente piccolissima, uno ha l'impressione di poter andare ovunque, dappertutto in poco tempo, esatto, in pochi minuti. Quindi certo. Cioè, tendenzialmente l'infrastruttura da questo punto di vista è già una mano anche per chi deve organizzarsi la giornata di lavoro, per esempio. Certo, no? certo. A me capitava di uscire per appuntamenti all'altro capo di Parigi con un quarto d'ora di margine e arrivare puntuale. Detto questo, poi un'altra cosa notevolissima che io ormai pratico da oltre un anno è il Vélib', sono le biciclette il bike sharing. Quello è qualcosa di veramente notevolissimo, perché ci sono appunto 20.000 biciclette, una quantità di stazioni impressionanti, c'è una stazione ad ogni angolo della città. E quindi Parigi è una città molto bella, secondo me, da percorrere in bicicletta. È molto bello, oltre ad essere ecologicamente sostenibile, è molto bello durante tutto l'anno, anche d'inverno, gironzolare in bicicletta, andare a lavorare in bicicletta, e ci sono un sacco di parigini che lo fanno, è diventata una cosa veramente popolare, ci sono più di 200.000 abbonati al servizio. Ecco, se, tra l'altro questa è una realtà, una notizia proprio di qualche giorno fa, forse di ieri, una realtà anche milanese, insomma il bike sharing ha avuto un successo straordinario e si pensa entro il 2015 di avere oltre 100 km di piste ciclabile in tutta la città, parlo di Milano appunto, anche perché insomma in questo momento in cui viaggiare costa da tanti punti di vista, cominciata la benzina e poi con un occhio anche all'ecosostenibilità, andare in bicicletta sicuramente un ottimo sistema per spostarsi, anche per godersi la città in un modo completamente diverso, perché lo fai con molta più calma. Ecco, Andrea, per chi volesse vivere Parigi e cercare un lavoro, forse come al sempre si comincia da lavori un pochino più umili, anche prima Giannotti raccontava di Berlino, dice se non sai bene il tedesco è ovvio che devi partire da lì, però poi ci sono anche altre possibilità, magari se conosci il francese sei anche ovviamente avvantaggiato. Tu cosa consiglieresti? Quali sono le opportunità che la Francia e Parigi magari in particolare offre in questo momento, secondo te? C'è da dire che due premesse. La prima effettivamente è un po' un luogo comune, una battuta che i francesi non parlano le lingue, parlano solo il francese è fondamentale. È un po' vero, nel senso c'è un buon fondo di verità. Senza parlare il francese è veramente complicato lavorare in Francia, a meno che uno non sia appunto nella traduzione, ma è comunque in ogni caso difficile avere un approccio lavorativo. Ecco, questa comunque credo che sia una realtà che riguarda un po' tutti i paesi del mondo, in generale, ovviamente. La lingua, però il computer, il francese è una lingua relativamente simile all'italiano che si impara. Io l'ho imparata veramente molto in fretta. Adesso appunto sono giornalista, lavoro per giornali francesi, quindi non ho grossi problemi anche da italiano a convincerli che posso scrivere nella loro lingua. Ecco, le opportunità secondo te quali sono in questo momento? Esatto, c'è poi da dire questa cosa che comunque è un periodo di crisi, per cui in Francia il tasso di disoccupazione a Parigi è un po' più basso rispetto a quello del resto del paese, ma la situazione non è rosea. Detto questo, appunto, esistono, diciamo che in Francia c'è i posti di, diciamo, ad alto livello, ingegnere, comunque posti ad alta formazione, specie in ambito tecnico, economico, scientifico, sono molto ben considerati. C'è ricerca, a Parigi c'è un sacco di, diciamo, tutte le più grandi imprese francesi hanno sede a Parigi, quindi c'è effettivamente un bel ventaglio di... Ecco, dice, le opportunità ci sono. L'ultima domanda che ti faccio, Andrea, è questa. Se anche come Berlino, secondo te Parigi è una città a sé rispetto alla Francia, oppure, insomma, il discorso che hai fatto vale un po' anche per altre grandi città della Francia? Assolutamente una città a sé, nel senso che... Come sempre. È proprio totalmente c'è la Francia e c'è Parigi. La gente di provincia guarda Parigi un po' con fastidio, con invidia, con un po' di rancore, e i parigini a volte si scordano che c'è qualcosa al di là del periferico, che è la circonvallazione, la tangenziale di Parigi. Molto spesso non ci riescono, raramente, più delle volte in aereo per andare in un altro continente. È un po' un luogo comune, ma anche qui c'è un buon fondo di verità. Andrea, Parigi per sempre o tornerai in Italia? Mi piacerebbe tornare in Italia, non so quando, ma un giorno sarebbe bello tornare. È una bella risposta per noi italiani, ovviamente anche per te. Grazie Andrea, buona giornata, buona domenica. Intanto sono arrivando i vostri sms, sono tanti le città dove vorreste andare a vivere, qualcuno vorrebbe restare in Italia cambiando però posto. Continuate a scrivere, poi leggerò i messaggi e vi racconterò anche quali sono le vostre opinioni. 349-238-6666, adesso faccio il contrario invece. Qualcuno che dall'Inghilterra si è spostato più o meno in Italia. John Peter Sloan. Ciao John Peter, buona domenica. Good morning. Ecco, no, se cominci con l'inglese adesso ti metti in imbarazzo. Scusami, ma a Berlino devi sapere perfettamente il tedesco. Abbiamo appena sentito che a Parigi sapevi il francese, siamo in Italia, devi sapere bene l'italiano. Ecco, quindi. Allora, John Peter, tu... I'm trying to help you though, you know. I mean, you should speak English. Ok, dai, adesso parlo italiano perché mi è un po' così. Adesso non voglio farmi gli affari tuoi, però sono curioso di sapere perché sei capitato in Italia. È stato un caso o una scelta? No, no, è stato per caso, perché per tanti anni cantavo, sono andato in diversi paesi in Europa, tipo sì. Spagna, Francia, l'abbiamo girato Europa e io sono capitato in Italia e mi sono innamorato dell'Italia e sono rimasto qui, però è stato per caso all'inizio, sì. Quindi insomma tu hai fatto un pochino il contrario, no? Ormai il desiderio di molti italiani è quello di andare a vivere in un'altra città e invece tu hai fatto un po' il contrario. Però io volevo anche capire, secondo te oggi come si vive in Inghilterra? Cioè se qualcuno dovesse fare la scelta di andare a vivere in Inghilterra e a Londra in particolare, perché ritengo anche che, come nelle città che abbiamo appena raccontato, anche Londra sia un po' una città a sé rispetto alla realtà inglese, o mi sbaglio, John? Sì, assolutamente, ma io infatti dipende perché uno va in Inghilterra. Se uno va in Inghilterra per lavorare, io invece sconsiglio in modo più assoluto di andare a Londra, e anche per studiare, l'ho sempre detto, cioè in Italia vanno a Londra come dei lemming, cioè come fosse Londra e Inghilterra, e non è proprio così. Infatti io ai miei studenti dicevo sempre, se vuoi andare in Inghilterra prima di tutto per imparare inglese, vai a nord, per diversi motivi, prima di tutto perché Londra non è Inghilterra, nel senso di il vero Inghilterra, è pieno di stranieri, non trovi tanti inglesi, gli inglesi che ci sono molto ostili, perché comunque non ce la fanno più con stranieri, sì. Costa tanti soldi, infatti tante mamme mandano i loro figli a Londra, dove si vendono subito, trovano tanti altri italiani lì e imparano meno di prima, mentre se vai tipo a Liverpool o Manchester, la gente è molto più simpatica, devi parlare, per me, questa è la mia opinione, certo, certo, più, beh. Tipo meridione, ecco. Sei costretto a imparare inglese perché comunque italiani sono veramente, i turisti sono molto pochi e costa molto molto meno. Questo è uguale per lavoro secondo me, perché se un italiano adesso che va a Londra per cercare lavoro, sono le competizioni, a me mi scrivono spessissimo delle persone deluse che addirittura in un anno non hanno riuscito a trovare niente, nemmeno come lavapiatti. Cioè tutti gli italiani dicono, vado lì, faccio il lavapiatti, come sì. Fosse una cosa semplice, invece ci sono milioni di italiani, francesi, spagnoli che vogliono fare così, mentre certo, se vai a nord è più facile. Quindi tu dici, anche in città come Manchester e Liverpool è possibile trovare lavoro, quindi si riesce a fare un'esperienza anche di questo tipo e la consigli? Adesso sì, perché c'è il mito italiano ora, quindi c'è proprio io ho visto ultimamente che stanno crescendo tantissimi pizza, pali, c'è tanti, come si dice? C'è caffetteria italiani, sì, pizzeria italiani, di cui ci sono dentro gli inglesi, quindi è normale che se viene un italiano vero che sa però l'inglese, questa sempre torniamo lì, che almeno una base di inglese ci vuole, no? Però se hanno gli italiani che adesso che vanno al nord è più facile trovare lavoro secondo me. Ecco John, invece per quanto riguarda l'Italia, visto che tu poi hai scelto di restare in Italia e hai lei anche girata l'Italia, come hai detto prima, hai anche girato l'Europa in generale, c'è una città che preferisci in Italia per qualche ragione, dove consigli di spostarti, anche perché tanti ascoltatori nelle città del desiderio hanno inserito anche delle città italiane nei messaggi che stanno arrivando, qual è il tuo consiglio? Allora, non è un consiglio, però mio, come dico sempre, io sono innamorato di meridione italiana, cioè io sono spesso a Napoli, sono spesso in Puglia e ultimamente vado giù spesso perché vado nelle scuole a cercare di svegliare questi ragazzi, che quanto è importante l'inglese per andare, per avere una certa, per andare via, però io amo il giù. Non viverei giù, però, questa è un po' una paradox, nel senso che io vado spesso giù, mi piace proprio meridione inglese, scusami, italiana, che è un po' la parallele con nord sì, Inghilterra. Sì, infatti l'hai raccontato prima. C'è Liverpool e Napoli, per dirti. Però non viverei lì perché è un po' male organizzato e comunque poi ritorno su a Milano perché comunque mi piace l'ordine, capito? Insomma, da inglese, giustamente tu stai parlando da inglese, giustamente. Sì, sì. E infatti l'occasione, siccome in questo momento noi stiamo trasmettendo in diretta dalla 76esima Fiera del Levante di Bari, è l'occasione proprio di riscoprire Bari per chi così non l'avesse mai fatto, è quello di è proprio questa l'occasione, è quella di questa fiera che durerà fino al 16 di settembre, appunto per respirare l'aria, vedere le opportunità che in realtà sono tantissime, e il padiglione tra l'altro dove siamo in questo momento, quello della Puglia, ve le racconta anche con i numeri, ce ne sono tanti anche intorno a me appesi sulle pareti. Ecco, John Peter, torniamo un attimo all'inglese, anche perché il Sole 24 Ore da giovedì 30 agosto sta pubblicando la collana Speak Now, sono i 12 cofanetti in DVD con il libro anche per imparare l'inglese, con il metodo che in qualche modo tu hai costruito, cioè tu, che è quello di divertire mentre si insegna. Certo. Che funziona sempre, dici, perché esattamente l'insegnamento tout court annoia un po', no? No, dipende come insegnato, cioè io sono sempre stata l'idea che se uno si diverte impara molto più volentieri, ma ho inserito l'umorismo anche perché gli italiani, per il famoso blocco che hanno gli italiani, gli studenti, perché con gli inglesi hanno un brutto rapporto. Ma perché c'è? Cioè, ma che blocco abbiamo secondo te, scusami, che blocco abbiamo rispetto all'inglese? No, allora... guarda, lo so che sembra che lo dica apposta, sembra che ovviamente mi interessa dirlo, però perché l'insegnamento è stato sbagliato in Italia, io infatti l'ho costruito, in Italia usano corsi che non sono scritti per gli italiani, quindi è ovvio che fanno fatica, molto fatica, quindi io da insegnante io non avevo mai pensato di fare libri e DVD, cioè è nata la cosa perché io come insegnante mi serviva un corso specificamente per loro. Adesso ho scoperto che anche gli spagnoli hanno lo stesso problema, perché il primo libro vende molto in Spagna, quindi ho scoperto che hanno gli stessi problemi gli italiani, però cioè, di farla divertente era per sciogliere questo blocco psicologico che è venuto perché ce l'hanno facile, perché si sentivano stupidi, perché non riuscivano a fare progressi in inglese, quindi ed è funzionato, è una cosa molto semplice. Io spiego l'inglese, spiego le regole in italiano, così li capisci, cioè prima capisci cos'è l'inglese prima di imparare le parole, quindi spiego le regole in italiano e poi tutta la pratica in inglese. E funziona. Sì, poi c'è stato tanto, anche un momento. Funziona, no? Sì, è stato anche un momento in cui l'inglese è cominciato a essere insegnato con le frasi già pronte, quindi senza la grammatica, ed era difficile poi comporre frasi diverse da quelle che avevi imparato perché non sapevi come mettere le parole. Comunque sia, chi volesse informazione sul sito del Sole, il sole24ore.com/speaknow, c'è tutto il piano dell'opera. John Peter, da quello che ho sentito, prima di lasciarti ti chiedo una cosa. Lascerai l'Italia? No, perché adesso hai parlato di Spagna, non vorrei mai che tu andassi a vivere là. Oppure resterai in Italia per sempre? No, io... Non lascerò mai. Non lascerai mai l'Italia. Sei un italiano adottivo ormai, allora ti abbiamo preso con noi. Grazie John Peter Sloan, buona domenica. Ciao, grazie. Gli aggiornamenti sul traffico e poi andiamo avanti con il riposo del guerriero in diretta da Bari. Certo che leggendo i vostri messaggi si aprono veramente dei mondi, a volte anche così impensati, no? E quindi grazie di quello che state scrivendo. Anna Maria, che abita a Bustarsizio, per esempio, dice: vorrei abitare in Toscana, ho scoperto delle città straordinarie come Gambassi Terme o Monte Rigioni, mi piacerebbe vivere lì. Oppure ancora, il luogo ideale è la Lapponia svedese, dove vivo, a presto. Quindi qualcuno che ci ascolta anche adesso, non so se è in Italia in questo momento, il messaggio non è firmato, oppure ci sta ascoltando in streaming su internet. Anche questo è interessante, la Lapponia sembra un posto inesistente, se ne parla solo quando si avvicina il Natale, ma in realtà c'è qualcuno che ha deciso di andarci a vivere, sarebbe bello ascoltare l'esperienza. Oppure Enrico dice: io sono fiorentino, però vivrei a Trieste o a Praga. O ancora Luca, che curiosamente scrive: Rovigo la scelgo perché è una città a misura di rugby, è piccola e vivibile, ma abito a Reggio Emilio o a Reggio Emilia ora. Quindi due città comunque molto diverse, sicuramente entrambe assolutamente vivibili e non grandi. Qualcuno vorrebbe andare negli Stati Uniti, vorrei andare a vivere a Billings, nel Montana. Ecco, io personalmente mai avrei pensato di scegliere una città del Montana. degli stati degli Stati Uniti così, forse un po' lontano dall'immaginazione, se non quella che abbiamo visto nei film. Poi bisognerebbe vedere davvero com'è. Non vi sono recinzioni tra una casa e l'altra. A Carpi, dove abito, alla sera c'è una specie di coprifuoco e dilagano i furti, e questo secondo me non è vivere. Questo lo scrive Matteo in un messaggio, però ecco, adesso non è che bisogna andare per forza a Buildings, però è curiosa questa cosa. Oppure chi scrive Grosseto o ancora molte altre città, Carmen, che dice andrei a vivere a Tel Aviv, oppure qualcuno che rimane da un paese all'altro. Trasloco in paese in Italia, da Bergamo vado a Sant'Arcangelo di Romagna. Alessandra Tedesco invece è a Mantova. Ciao Alessandra, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica a voi. Eccoci qua, allora, dal Festival della Letteratura di Mantova, una città veramente straordinaria, bellissima, abbiamo raccontato tante volte, dove si mangia anche particolarmente bene e dove si legge anche molto bene, soprattutto in questo periodo, Alessandra. Assolutamente sì, sul mangiare sono d'accordo, infatti credo di aver preso già 2 chili in 4 giorni praticamente con i tortelli di zucca e tutte le altre delizie mantovane. E poi è bello perché qui si legge tanto, nel senso che il popolo della Festival di Mantova ci meraviglia veramente tutti gli anni, perché gente interessata che paga un biglietto, che sta in coda e va a sentire scrittori a volte sconosciuti, diciamo anche a noi cosiddetti esperti del settore, e quindi è veramente un popolo che ci meraviglia tutti gli anni. Ecco, allora quest'anno chiaramente ne avevi già un pochino parlato prima proprio del festival, quando abbiamo fatto la nostra puntata di qualche settimana fa. Adesso che invece il festival è vivissimo, magari hai anche delle novità, hai ascoltato qualcosa che ti ha colpito in modo particolare? Beh, ci sono stati moltissimi incontri interessanti, possiamo sicuramente dire che quelli più frequentati dal pubblico sono stati quelli di Massimo Gramellini, di Fulvio Ervas, che sono un po' i best seller italiani del momento a livello di libri. C'è stato anche Ligabue, applauditissimo in veste qui a Mantova di scrittore di racconti, ma personalmente mi sono piaciuti molto l'incontro di Auslander, che è uno scrittore pubblicato da Guanda in Italia, che ha un umorismo ebraico straordinario. Potete anche guardare per esempio su Twitter con l'hashtag Festlet tutte le cose che sono state appunto scritte su questo incontro. E poi l'incontro fra Nathan Englander e Edgar Keret, che sono due autori di racconti, perché quest'anno al Festival Letteratura di Mantova si è parlato tantissimo del ritorno del genere letterario dei racconti. E poi naturalmente, per adeguarci al tema della tua puntata del Riposo del Guerriero, abbiamo parlato anche personalmente con alcuni scrittori delle città dei loro sogni, cioè esiste una città ideale dove scrivere un romanzo o un racconto? Per ognuno sarà diversa ovviamente, ma esisterà, no? Ognuno assolutamente sarà diverso, e possiamo anche dire che per ogni romanzo esiste una città diversa, ideale. Sì. Per esempio ho intervistato Massimo Carlotto, uno dei maestri del noir all'italiana, ora in libreria con Respiro Corto pubblicato da Einaudi, e Carlotto, proprio per scrivere questo romanzo Respiro Corto, si è trasferito per alcune settimane della sua vita a Marsiglia, dove è appunto ambientato questo romanzo. E allora sentiamo un po' quello che ci ha detto. Ma Marsiglia rischiavo di essere un po' turista, no? Turista, lo scrittore turista. Invece per fortuna ho degli amici, e gli amici sono molto utili perché ti introducono immediatamente proprio nel cuore di quella che è la città. E la prima cosa è stata imparare un po' a ragionare come un marsigliese. I marsigliesi sono veramente, veramente particolari e hanno questo rapporto con questa città estremamente viscerale. E solo attraverso questa dimensione sono riuscito a entrare in contatto con la città. E hai trovato quindi materiale utile per il tuo romanzo? Sì, sì, il romanzo, nel senso che bastava andare in giro. Io racconto sempre che il personaggio della commissaria Bernadette Bourdet l'ho scelto perché mi sono proprio piazzato davanti all'entrata della sede della Brigata Criminale a guardare le facce che entravano e che uscivano. Marsiglia è così, vai a caccia delle situazioni, dei personaggi, vai nei locali dove che sai che sono gestiti per esempio dalla criminalità, Corso Marsigliese. Marsiglia ti permette tutto questo, Ed in fondo sembra sempre un set cinematografico, nel senso che non solo riconosci i luoghi dove hanno girato un sacco di film o di fiction, ma sembra veramente che da una porta in particolare possa uscire Jean-Paul Belmondo o Alain Delon. Ecco, le facce magari sono un po' diverse rispetto a quello degli attori che ha appena citato, Alessandro, ma non importa. Assolutamente. La cosa carina che poi abbiamo trovato un po' una chicca, nel senso che chiedendo appunto agli scrittori la città dei loro sogni dove scrivere, ho parlato con Andrei Longo, un autore a Delphi, ricordo per esempio la raccolta di racconti 10 ambientata a Napoli, e che ci ha proprio detto: mi avete letto nel pensiero, perché ho il progetto di girare un po' l'Europa, di stabilirmi in varie città europee e di scrivere racconti ambientati in quelle città. E infatti ci ha promesso che insomma li farà leggere per prima noi di Radio 24. E allora sentiamo insomma una di quelle di città che sceglierebbe. Sentiamo Andrei Longo. Se vuoi un posto dove mi piacerebbe stare per scrivere dei racconti è Lisbona, perché prima di tutto c'ha qualcosa che ricorda Napoli, con queste stradine, questi tram che si inerpicano, queste piccole bettole dove si mangia, e c'è il mare, e al tempo stesso è una città più tranquilla, più rilassante di Napoli, più educata potremmo dire di Napoli, però è molto suggestiva anche scenograficamente. Cioè, io sono arrivato col treno a Lisbona, sono sceso alla stazione e appena sono sceso mi sono reso conto di stare in un luogo unico, con tutti questi mosaici, questi azuleos, ogni casa è una casa speciale, quindi tu hai la sensazione subito di stare in un mondo diverso e a parte, che però riguarda un po', cioè non è un mondo così a parte da non poter ambientare delle cose universali. Lisbona ha un fascino anche un po' decadente come Napoli. Napoli a confronto di Lisbona è più vitale. Quando tu arrivi sembra che sei stato scaraventato a Bombay piuttosto che in una città europea, e quindi c'è subito una frenesia. Invece Lisbona appunto c'ha queste cose più soft, sembra di essere quasi andato un po' indietro nel tempo, no? C'ha una lentezza più sarda direi che napoletana, però come luoghi fisici sembra più Napoli, quindi è molto particolare. Potrai restare con noi anche dopo il GR, Alessandro? Assolutamente sì, okay, certo, allora, perché so che hai preparato anche un terzo autore, quindi il GR, volevo leggere ancora un messaggio che arriva da voi, tipo: Londra, senza ombra di dubbio, scrivete, la città delle possibilità, questo lo dice Valentino. Ancora Daniela che dice: io sceglierei Milano, Roma, oppure se dovesse andare all'estero New York. Il riposo del Corriere da Bari torna dopo il GR. Alle 11:06, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, riposo del Guerriero su Radio 24 in diretta dalla 76esima Fiera del Levante di Bari. Siamo qui nel padiglione della Regione Puglia. Oggi l'argomento è la città del desiderio. Sono tante città dove vorremmo andare a vivere per una ragione o per l'altra, magari città che abbiamo semplicemente visitato durante l'estate e che in qualche modo ci hanno colpiti. Maria Teresa su Facebook invece dice: vorrei andare a Stoccolma, una città giovane, verde, ampi spazi, più di una barca pro capite per famiglia, tanto pesce, insomma, lo Stato ti è amico. È vero, insomma, Stoccolma poi ha anche tante regole particolarmente interessanti che riguardano anche proprio il modo di governare la città. Ho ancora Paolo che dice: vorrei andare a vivere a Berlino o ad Amburgo, e di Berlino abbiamo parlato proprio in apertura della trasmissione questa mattina. Ancora Margherita dice: Udine, non è forse una città perfetta, però ci stanno lavorando. Ancora Elena dice: mi piacerebbe andare a vivere in una qualsiasi città delle Marche, e monti, mare e cultura, sarebbe molto bello. Elena, tutto si può fare a quanto pare, e la domanda la rivolgo ovviamente anche a voi, e potete rispondere con un sms al 349-238-6666, qual è la città dove vorreste andare a vivere. La cosa curiosa è che nelle città raccontate anche dei vostri messaggi sono tutte completamente diverse, cioè non c'è ancora stata una ripetizione, per cui in qualche modo la volontà è quella di andare a vivere nel mondo in generale. Alessandra Tedesco, dov'è che vorresti andare a vivere tu? Io sarò banale, Stefano, però a me piacerebbe moltissimo andare a vivere a Parigi, in quelle soffitte, insomma, in quegli abbaini, magari con un po' di pioggia. Gli Aristogatti, insomma. E quindi leggere tanti libri con quell'atmosfera, mangiare croissant, perché no, insomma, anche quello ci vuole. E la baguette, che non può mancare quando nell'iconografia parigina c'è per forza anche quella. Allora, stiamo parlando con Alessandra del Festival della Letteratura di Mantova. Alessandra ha chiesto ad alcuni scrittori quale potesse essere la loro città ideale per scrivere, magari anche per andare a vivere, chissà, ma gli scrittori si spostano, no? Non hanno mai una città fissa. Di solito randagiano. Spesso scelgono proprio un luogo dove andare a scrivere, come ha fatto Nicola Gardini, che per Feltrinelli adesso è in libreria con Le parole perdute di Amelia Lindt. Praticamente lui spesso va in una città d'oltreoceano, provate un po' a immaginare quale, per scrivere i suoi romanzi. Sentite quello che ci ha detto. Io vivo in tante città in realtà, e quindi mi capita di scrivere in varie città, quindi potrei dirti quelle in cui scrivo meglio. Per esempio a New York io scrivo con grande concentrazione, un pochino meno a Milano, dove sono più disturbato. L'importante è trovare uno spazio, parlo per me, tranquillo, ecco. A New York, per una serie di circostanze, io finisco sempre per avere degli spazi molto protetti, molto difesi, e quindi così lì andrei a scrivere anche il prossimo. Insomma, New York alla fine non è una città così invasiva come si pensa? No, assolutamente. New York è una città sicuramente molto movimentata, frenetica, molto varia, però in questo straordinario alveare di api operaie e regine si trovano davvero zone di riposo e di tranquillità. New York è anche una città medievale, è una città di chiostri, è una città di campanili, e quindi io ho trovato sempre, anzi dicevo che il mio prossimo romanzo lo scriverei lì, in realtà l'ho scritto lì, è un romanzo che uscirà tra un po' di tempo, e lì l'ho scritto con grande gioia, felicità e facilità. Ma tu hai l'immagine dello scrittore che va nel bar sotto casa con il suo portatile a scrivere, o magari te ne vai a Central Park, o sei rinchiuso insomma nelle mura di casa tua? Questa è una buona domanda, perché in effetti io scrivo molto volentieri all'aperto, soprattutto per esempio dove ho molto spazio davanti. Per dirti, nella sala d'attesa di un aeroporto, ecco, lì mi concentro molto bene, mi piace tutto il brusio che c'è intorno, che mi fa sentire in compagnia, ma anche molto solo, no? Perché non ho niente a che fare con tutta questa gente. Però, diciamo, sì, mi piace scrivere anche nei caffè, mi piace prendere appunti, mi piace pensare. In realtà penso un po' dappertutto, insomma, scrivere si fa tanto anche con la testa prima che con la tastiera o anche o la penna sul foglio di carta, e io penso molto e posso farlo anche così in un bar, volentieri. Ecco, in effetti devo dirti, Alessandra, che mi ha incuriosito quando ha detto che a Milano sono disturbato e a New York no. Cioè, infatti io gli ho chiesto, dico, ma scusa, New York è una città che praticamente non dorme mai, e dico, sarà chiusa in un bunker evidentemente, perché insomma dire che è più tranquilla a New York che a Milano ha stupito anche me. Ma dice che riesce ad avere un'area protetta, non lo so, magari in mezzo a Central Park, non ho idea di dove possa essere, comunque beato lui, voglio dire, è una bella beato situazione. Beato lui, assolutamente. A proposito di città, tra l'altro, Stefano, sì. Tu in questo momento sei nella mia città, Bari, quindi ti invidio moltissimo, però mi piace anche annunciare agli ascoltatori che anche Il cacciatore di libri sarà alla Fiera del Levante di Bari venerdì prossimo, come altre trasmissioni di Radio 24, che in questi giorni appunto trasmettono dalla Fiera del Levante, e faremo una puntata speciale del cacciatore di libri, dedicata ovviamente agli scrittori pugliesi, insomma una sorta di dalla Puglia con furore, ecco. Assolutamente sì, ti aspettiamo, grazie Alessandra, buona domenica. Grazie. Ciao. A tutti, buongiorno a voi. Grazie, cioè, da una città splendida, Bari l'abbiamo citata, ma siamo qui, Alessandra era a Mantova, passiamo a un'altra città altrettanto splendida, ecco, in Italia le città sono tutte belle. Marta Cagnola, ciao, buona domenica. Buona domenica dal Lido di Venezia. Eccola lì, tu non lo puoi perdere ovviamente, ma sei tipo adesso sei a prendere il sole perché ormai hai fatto tutto quello che dovevi fare in questi giorni, devo dire anche frenetici, con molte cose da guardare, ti stai rilassando un pochino o sei ancora sto alle prese? Sto facendo le valigie, perché tra poco si riparte, ebbene sì, anche quello è un appuntamento immancabile dei festival, a riuscire a richiudere i bagagli. Allora, senti Marta, la prima domanda che ti faccio, visto che l'argomento della puntata di oggi è la città dove vorresti andare a vivere, se ce n'è una tua, dei tuoi desideri. desideri, dove vorresti appunto essere? Magari. La città che non dorme mai, New York, appunto, ne sentivo parlare qualche istante fa, sì. È la mia città del cuore in assoluto. E poi, a parte ovviamente la città in cui sono nata, le mie zone, sono molto attaccata alle mie radici, Roma. Ecco, quindi insomma, sono due, puoi anche restare in Italia allora, restando comunque, esatto, una città, sì, che ti piace, sì, senza doverti, certo, spostare per forza. Pietà ha vinto, Kinky Duke, io tra l'altro sono un grande fan di Ferro 3, è uno dei miei film preferiti di sempre, per cui sono anche molto felice che abbia vinto con Pietà, che ovviamente non ho ancora visto, ma che invece tu avrai visionato. Guarda, non avevamo moltissimi dubbi, diciamo che... Già dall'inizio, dopo, tra l'altro, sì, dalla prima proiezione, sì, no? Sì, già dalla prima proiezione i dubbi ce n'erano pochi, anche perché non sono stati, a parte The Master, subito dei film che potessero far pensare a dei premi. Invece, diciamo che su Kinky Duke non ci sono stati dubbi fin dall'inizio. Poi un paio di sorprese, ma diciamo che l'unanimità c'è stata quasi da subito, l'avevamo intuito. Poi sai, le giurie fanno sempre dei lavori un po' misteriosi, e infatti a un certo punto era venuto fuori che forse ci fosse qualcosa di grosso per Marco Bellocchio, e così non è stato. Però devo dire che su quello potevamo scrivere i pezzi in anticipo, diciamo, ecco. Si sapeva, infatti già dalla prima proiezione si parlava di questo, e alla fine così è stato. Ci sono aggiornamenti sul traffico, Marta, poi torniamo da te perché volevo un po' capire la tua impressione di quello che invece è stato alla Fiera del Festival del Cinema di Venezia, il cinema italiano, che pare insomma abbia in qualche modo un po' deluso. Tra poco. Sempre in diretta da Bari, dalla Fiera del Levante, Marta Cagnola invece a Venezia in questo momento con le valigie pronte, non so se si è seduta sopra la valigia per poterla chiudere, non ho idea. Allora, Marta, si fa. Prima di continuare la nostra chiacchierata, scusa, ti leggo semplicemente un messaggio a te e gli ascoltatori, perché io sto chiedendo quale fosse la loro città del desiderio, dove sono andati a vivere, e Luisa ha risposto a una mia domanda, ha detto: io vivo in Lapponia, è stata più precisa, dice: ti sto ascoltando con l'iPad, sono in Lapponia, 23 abitanti, 1000 chilometri di foreste dove vivono gli orsi e il bue muschiato. Ho messo su un piccolo tour operator che si chiama Red Fox Adventure insieme al mio husky siberiano rosso di nome Ginger. Vedi che si può avere anche una vita completamente diversa da quella che viviamo tutti i giorni. Ma intanto prendo appunti, perché ci vorrei andare prima o poi. Va bene, allora ti metteremo in contatto sicuramente con Luisa, che saprà dove. 23 abitanti, però con 1000 chilometri di foreste vuol dire non trovarsi mai, perché o c'è il bar dove si trovano tutti oppure no, sarà difficile incontrarsi. Allora Marta, ti chiedevo dei film italiani in concorso a Venezia che un po' hanno deluso, mi sembra che non abbiano portato a casa molto, no? Guarda, la mia impressione, che poi ovviamente è la mia impressione, però insomma non sono stati azzeccatissimi i film in concorso, o meglio non è stata molto azzeccata la scelta di mettere quei film in concorso, soprattutto per quanto riguarda il film di Francesca Comencini, che è una commedia gradevole, che ha anche comunque dei contenuti importanti, ma quella non era secondo me la sua collocazione ideale, è stato proprio soffocato dal confronto con gli altri film. Diciamo che secondo me è un film molto carino per la serata al cinema con gli amici, anche per fare qualche riflessione, ma il concorso è un'altra cosa. Bella Addormentata di Bellocchio è un film che può piacere, può non piacere, ma che difficilmente viene capito dagli stranieri secondo me, quindi i giurati stranieri lo hanno detto, è pieno di riferimenti, è pieno di cose che capiamo solo noi italiani. Per quanto riguarda Il figlio di Daniele Cipriche, era sicuramente il più adatto e secondo me anche il migliore dei film in concorso. Qualcosa l'ha portato a casa, insomma, il contributo tecnico, e anche Fabrizio Falco, entrambi i premi condivisi anche insomma con Marco Bellocchio, però insomma non sono stata contenta del fatto che il film migliore degli italiani non fosse in concorso, non nel concorso principale, era in Orizzonti, lo splendido L'intervallo di Leonardo Di Costanzo, che è vero, io continuo a parlarne, gli ascoltatori saranno stanchi perché io continuo a parlarne nei GR spettacoli, continuo a dire andatela a vedere, è un gioiellino. Perché effettivamente c'erano dei bellissimi film in Orizzonti, il livello era molto alto, così come nella settimana della critica, anche dei documentari molto belli, vorrei citare Terra Matta di Costanza Quatriglio, che è veramente interessante. Quindi il livello non era basso, forse le scelte non azzeccate. Non erano giuste, insomma. Quindi il motivo è un po' anche questo, ecco, non quindi la non capacità, tra virgolette, voglio dire, di concorrere con gli altri, però tu dici anche il tema del film stesso deve essere in linea con le altre proposte, altrimenti poi c'è troppa differenza e diventa anche difficile scegliere. Tieni anche presente che quest'anno non c'era più Controcampo Italiano alla Mostra di Venezia, ma il Controcampo Italiano sarà sostanzialmente al Festival di Roma, gestione Marco Müller, cioè ex direttore della Mostra del Cinema di Venezia, quindi vedremo molti film italiani a Roma. Ecco, a parte Pietà, che ha vinto l'intervallo che hai appena citato, qual è il terzo film che tu consigli di non perdere e che hai visionato? Allora, io vi faccio delle segnalazioni velocissime. Sì, Splendido Field Void, Coppa Volpi per la migliore attrice, esordio di una regista israeliana ultra ortodossa, ma è una storia d'amore. Il film di Brigante Mendoza, che il cui titolo è inglese è Thai Womb, cioè il tuo grembo, spero che esca presto in Italia, bellissimo, pieno di poesia, un film filippino straordinario. E poi un film che davvero spero che esca, ma sai com'è nei festival, chi lo sa, è un film georgiano, che non era nel concorso principale, Keep Smiling, che parla della vicenda di un reality show in Georgia. Posso farti già immaginare quanto può essere bizzarro, assurdo, grottesco, ma davvero ben realizzato. Bene, grazie Marta Cagnola. A questo punto buon rientro a Milano e lasci Venezia purtroppo, però poi tanto so che ci tornerai presto. Prestissimo, grazie. Buona domenica, ciao. Leggo ancora qualcuno dei vostri messaggi. Andrea scrive: ciao, dopo aver passato qualche settimana in Islanda andrei a vivere a Reykjavik, sono un popolo stupendo e la natura è fantastica. E poi sono pochi e vivono bene. Beh, abbiamo visto anche prima, ho letto il messaggio di Luisa, in Lapponia 23 abitanti su 1000 km di foreste, capisci che non ci si incontra mai, sono veramente molto pochi. Francesca Dragotto, ciao, ben ritrovata, buona domenica. Buona domenica e buongiorno. Qual è la tua città del desiderio? Nessuna. Ecco, stai bene a Roma, questo è. Ecco, a Roma ci stai benissimo. A Roma si potrebbe stare molto meglio, probabilmente in passato si è stati molto meglio. Ultimamente non è facile stare bene a Roma. Allora, senti, abbiamo parlato di lingue anche. La lingua è estremamente importante per chi sceglie di andare a vivere e cercare lavoro, quindi in una nazione diversa, quindi ovviamente anche una città diversa, la lingua resta il punto fondamentale per potersi inserire in questo mondo. E questo vale, immagino, per tutte le nazioni. L'inglese è favorito perché lo studiamo, però abbiamo sentito il tedesco, il francese e l'italiano, che si sa sempre di meno e che... Tanto ormai si sta semplificando, un po' forse come sta succedendo con l'inglese, no? Beh, questo è un processo inevitabile all'interno di qualsiasi lingua. Dovremmo aprire un discorso sulle varietà. Il problema non è la lingua media, il problema sono le varietà più alte della lingua che inevitabilmente stanno perdendo terreno, almeno in termini di numero di parlanti che sono in grado di padroneggiarle. Ecco, insomma, magari poi apriremo anche una finestra in questo senso. Di cosa ci volevi parlare oggi, Francesca? Un gioco di parole. Quando dall'ottimo Giorgio De Luca, che saluto, ho sentito che l'argomento sarebbe stata la città, mi è venuto immediatamente in mente un calambur, un gioco di parole, basato appunto su due parole che scriviamo nello stesso modo ma che rimandano a significati completamente diversi. E ho intitolato questa riflessione, così come poi il relativo post che comparirà su Tuttopoli, la città dei soli. E ora vado a spiegare perché, però una volta dopo aver dedicato non più di 30 secondi a quella che è stata la premessa del mio ragionamento. Sentendo dire città, il pensiero è corso inevitabilmente a Thomas More, l'umanista che a cavallo tra 4 e 500 ha ipotizzato l'esistenza di utopia. Utopia che poi in italiano è diventata utopia, quella città isolaregno abitata da una civiltà ideale che è il non luogo ma al tempo stesso il buon luogo, se andiamo a giocare con quella U iniziale, letta come EU, buono, e non come OU, non. Perché ho pensato a Thomas More? Perché, e ancora una volta faccio riferimento alla lingua, la città, in latino civitas, è il punto di arrivo e non il punto di partenza dell'esistenza di cives, cioè di membri liberi, che riunendosi fanno la Civitas. Quello che voglio dire è che esiste una città perché esistono dei cittadini e non il contrario, non si è cittadini perché esiste la città. Sembra un fatto nominalistico, sembra un fatto di lingua, invece è un qualcosa di importante perché capovolge completamente quello che è il nostro modo di sentire la città. Quindi, rimesso ordine nel rapporto di causa-effetto tra cittadini e città, passo dimmi. Scusa, no, Francesca, ti interrompo solo un attimo per dire una cosa, però è importante in realtà quello che hai detto, perché è una questione anche di mentalità quando viviamo in una città. Siamo noi che facciamo la città. Esattamente. Quindi il nostro comportamento fa in modo di cambiare e modificare il comportamento dell'intera città. Cioè, quello che dobbiamo renderci conto è che noi siamo la città. Quindi quando, non so, distruggiamo qualcosa che fa parte della città, noi stiamo operando rovinando proprio la città, perché siamo noi che la facciamo. Questo dovrebbe essere invece l'ottimo punto di partenza che dovremmo avere inculcato nel cuore, nella testa, che invece forse non c'è, no? Alla fine la città la viviamo con qualcosa da usare, e quindi non pensiamo al fatto che il nostro comportamento invece è proprio quello che fa la città. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Sì, sei riuscito perfettamente e sei andato a ribadire quello che poi appunto è il rapporto di concatenazione che ritroviamo all'interno della lingua, dove civitas, che poi nell'italiano attraverso il latino volgare è diventato città, è derivato da cives, quindi vengono prima i cittadini, coloro, in latino non è esattamente cittadini, però insomma non importa, coloro che in quanto liberi si uniscono formano un'entità che si chiama città, e non il contrario, come invece spesso accade accade in epoca moderna. Mi sembrava giusto ripristinare la primazia corretta dal punto di vista delle derivazioni. È civitas, quindi città, che deriva da cittadino. E dopodiché passo al gioco di parole, per non rubare troppo tempo. Ho detto la città dei soli, perché il gioco di parole, il calambur, perché se intendo soli come il plurale di sole, quello che risplende in cielo, l'interpretazione di città dei soli emana, è il caso di dire, l'immagine di una città che dovrebbe essere ad esempio soliva, quindi soleggiata, solatia, perché appunto soliva è una voce già del latino volgare, solivus, che deriva da sole. Però se vado ad interpretare soli come plurale, ai noi, dell'aggettivo solo, seguito da, nel caso dell'aggettivo che sto per utilizzare, dallo stesso elemento che ritroviamo ad esempio in casalingo, allora la città diventa solinga, ovvero lontana dalle vie di comunicazione, distanziata da altri edifici, desolata, abbandonata. Quindi chi vive in una città solinga si trova spesso a soliloquire, a parlare da solo, ad avere atteggiamenti e stili di vita solipsistici, incentrati su se stessi, sulla propria singolarità. Quindi di nuovo viene meno quella dimensione di pluralità, di collettività, di insieme, che è fondamento stesso dell'esistenza della città. Si trova a condurre una vita solitaria, o come si diceva nell'italiano antico, soletaria, da solivago, che vaga da solo, che ha abitudini solitarie, a sperimentare quindi le vie della solitudine o della solitarietà, con la T e non con la D, una forma appunto più antica e meno nota, indicante però lo stesso significato. E allora, e chiudo, come possiamo pensare di superare questo stato di cose, quello attivato dalla duplice lettura di soli, continuando a giocare con le parole? La risposta la possiamo trovare anche in questo caso in un pezzettino di lingua, ancora una volta in un sol, proprio per continuare il calambur. La città ideale, anzi la città ideale non, la città e basta, dovrebbe essere solida, solidale, solidarista, solerte, solenne, in sintesi solima o sollima, che è una parola poco usata, una parola di origine popolare, o meglio la variante popolare della parola sublime. Quindi la città dovrebbe stare in una posizione superiore, eccelsa, appunto, sublime, anche e soprattutto rispetto a coloro che ci vivono. Che meraviglia, ecco, sarebbe quella veramente la città ideale. Francesca, io ti ringrazio moltissimo. Se volete poi leggere tutto il ragionamento, tutopoli.com è il sito costruito proprio per questa nostra chiacchierata domenicali con la nostra glottologa Francesca Dragotto. E Francesca, auguri per domani a questo punto, perché grazie, poi domani festeggerai, spero, alla grande. Buona domenica ancora, ciao. Grazie, ci sono grazie a tutti. Ci sono le previsioni del tempo e dopo Davide Paolini, ma prima volevo leggere un messaggio che riguarda finalmente la scelta di una città italiana. Mi piacerebbe tornare a vivere a Bologna, una città colta, divertente e con una cucina buonissima. Questo lo scrive Roberta, tra l'altro di Roma, e di cucina parliamo tra pochissimo dopo le previsioni del tempo. sempre su Radio 24 e sempre in diretta dalla 76esima fiera del Levante di Bari. E volevo leggere ancora qualcuno dei vostri messaggi prima di passare al nostro gastronauta. Allora, innanzitutto i messaggi legati a Francesca Dragotto, che parla così con l'accento romano, l'inflessione romana, e questa è una scelta. Ne abbiamo parlato già tante volte, quindi non sto a raccontarlo di nuovo, però lo dico agli ascoltatori che non la conoscono ancora e che l'hanno ascoltata adesso. Amo due posti, scrive un ascoltatore, il Portogallo e le Fiandre, e c'è una città che unisce entrambe e che è Guimares, però in verità adesso vivo a Ferrara e sono felicissimo, umilità a parte, speriamo che adesso non ce ne sia troppa. A questo punto è il momento di aprire le porte al gastronauta. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno Davide Paolini. Buongiorno, buongiorno a tutti. Qual è la tua città del desiderio? Dov'è che dovresti andare a vivere? Ma guarda, io ho vissuto a Roma, Milano, Firenze, Treviso e Bruxelles, però ti dico che la mia città del desiderio in Italia è Verona e nel mondo è Sydney. Ah, va bene, insomma, quindi due scelte che non sono proprio la stessa cosa, però a quanto pare l'acqua per te è importante, no? Per entrambi i casi, insomma. Ma il mio posto ideale vorrei vivere in un mulino sul corso di un fiume, quindi se dovessi cercare il mio posto ideale, non la mia. Non so quanti ideale. Mulini ci siano sull'Adige, non ho idea, però sul Mincio ce ne sono parecchi di mulini e siamo beh, vicini sicuramente. Se ce n'è qualcuno che magari è ridotto male da ristrutturare, non so, disponibile, beh, insomma. Non lo so, molti si sono trasformati in agriturismi, di conseguenza però potresti sempre chiedere, indubbiamente. Davide, di cosa ci parli questa domenica? Ma stai parlando di città ideale, sì. Quindi anche sul cibo. Oddio, sai, le grandi città in Italia, dal punto di vista, se vogliamo, dell'offerta enogastronomica, non sono molto allettanti, sono molto meglio le città di provincia, appunto, dico Verona, Mantova, cioè queste città dove sicuramente il cibo è molto più curato e c'è una scelta qualitativa decisamente superiore. Io credo che le grandi città abbiano delle grandi potenzialità di offerta del cibo, i grandi mercati, ad esempio Milano ha un mercato straordinario del pesce, questo è riconosciuto un po' ovunque, molte volte ecco, questa grande offerta non si traduce poi nella ristorazione, quindi diciamo che abbiamo questa grossa incongruenza, ma io credo che ci siano molte città che hanno delle caratterizzazioni, le trattorie, le osterie, wine bar, quindi quelle sono le piccole, quelle di provincia sicuramente sono molto ma molto più caratterizzate. Parlavo di Verona, ecco Verona ha decine e decine di posti dove uno può passare la serata anche magari oltre la mezzanotte. Mantova un po' meno oltre la mezzanotte, però prima di mezzanotte sicuramente si possono trovare tanti locali e localini. Ma anche al sud sicuramente c'è questa potenzialità. A me ad esempio ha colpito molto Lecce, ecco Lecce è una città del sud davvero molto molto interessante che ha locali e localini diciamo nelle viuzze molto molto interessanti e quindi una città ideale del cibo io in Italia non la vedo. Oggi le grandi metropoli ideali per il cibo sono Londra, sono New York, sono sempre state Parigi, ecco lì secondo me sull'offerta è decisamente molto molto più importante. Magari qualcuno, qualche italiano non trova gli spaghetti a Londra cotti al dente o a New York non trova una cotoletta fatta come Dio comanda, però sì, questo è vero, ma c'è una varietà anche di cucina etnica incredibile. Le città italiane mancano di una cucina etnica e quindi nuova di qualità. Diciamo che tutti i locali etnici nelle grandi città italiane sono davvero molto molto mediocri e non sono curati. Questo forse dipende dalla domanda sì. Dei cittadini che vivono in quella città. A Milano ora c'è in corso una ricerca di un giovane cuoco che sta cercando tutti i negozi piccoli e piccolissimi che vendono diciamo specialità etniche dalle quali puoi trarre delle ricette importanti. Ebbene, questo giovane chef mi diceva che c'è una varietà davvero incredibile a Milano, quindi ci sono poi queste scoperte da andare a fare, chi è curioso, chi è interessato e chi magari non è solito andare nei soliti posti. Ma quindi abbiamo Pronto? capito, esatto, poi sì, ci sono assolutamente sì. Insomma, la domanda poi è quella che farà differenza, ovviamente, come hai detto. Però io una cosa chiedo, le cucine di chiudere un pochino più tardi, perché in Italia, no, qui a Bari per esempio sono riuscito a trovare un ristorante ottimo, fra l'altro, dove la cucina chiudeva a mezzanotte, per cui grazie al cielo un orario assolutamente giusto. Però a volte, spesso, anzi nelle città italiane, le cucine chiudono troppo presto, e quindi quando uno arriva 9:30, 10, già non riesce più a cenare, e questo è un peccato ovviamente. Diciamo che più ti sposti verso il sud, più c'è l'abitudine a mangiare più tardi. Al sì, nord certo. C'è sempre stata un'abitudine a chiudere molto prima. Ti dicevo, ad esempio, a Verona c'è una vita che, diciamo, in enoteche o d'altro dura fino a un'ora piuttosto tarda, mentre ad esempio Milano, e la tua è una, così, è una considerazione interessante, cioè è difficile trovare di mangiare una cucina aperta dopo le 10:30. Beh, un attore di teatro mi diceva che forse anche loro sono molto in difficoltà quando vanno in giro in tournée. Per quello te lo dicevo, perché chiaro, chi ha un lavoro serale poi alla fine sta sempre un po' in impasse, questo è un peccato indubbiamente. Infatti ci sono i famosi dopo teatro, che sono quei ristoranti che fanno cena fino a tardi e che spesso sono vicini, ma mai non ce ne sono quasi più, e quello è il problema. Anche ma guarda che teatro, in Italia però abbiamo delle regole anche sindacali molto particolari sul lavoro, più di certe ore passi nello straordinario ed altro. E quindi diventa un problema di costi, ovviamente. Diventa un problema ovviamente, per la gestione di costi della ristorazione e del ristoratore stesso. Grazie Davide Paolini, qua apriamo un altro capitolo nel caso di farlo adesso. Buona domenica, ciao, grazie. Ciao, buona domenica. Grazie Davide, ciao. Insomma, e le problematiche poi ci sono, bisognerebbe conoscere appunto prima di giudicare in qualche modo. Non bisogna mai farlo, bisogna prima conoscere e poi si dice. Francesca Scalera, benvenuta, buona domenica, è qui di fronte a me, responsabile dell'ufficio estero della Fiera del Levante di Bari. Buongiorno. Eccoci qua, parliamo della Galleria delle Nazioni, che è uno dei padiglioni più interessanti in assoluto di questa fiera. Beh sì, è sempre stato una delle maggiori attrazioni della Fiera del Levante. Quest'anno c'è una novità, c'è uno spostamento chiaramente collegato all'insegna di tutti i cambiamenti che quest'anno la Fiera del Levante offre. C'è anche questa novità per quanto riguarda la Galleria delle Nazioni. La novità consiste proprio nello spostamento della locazione, cioè il luogo, perché la storica Galleria delle Nazioni verrà trasformata quanto prima in un nuovo centro congressi. Quindi abbiamo spostato questo salone dell'artigianato internazionale, così come l'abbiamo chiamato, in un altro padiglione. E da sempre chiaramente qui abbiamo delle rappresentanze estere, sia istituzionali e anche di imprenditori privati, e la presenza è sempre quella che di anno in anno magari anche si rafforza. Abbiamo chiaramente dei paesi che portano i loro prodotti tipici artigianali, e ci sono poi delle istituzioni chiaramente che partecipano raggruppando gli imprenditori della nazione di provenienza. Io sottolineerei anche degli aspetti molto, diciamo, umanitari che la fiera, come sempre, ogni anno, insomma, va incontro per queste necessità, come per alcuni paesi, come per esempio il Kenya. Il Kenya da 3-4 anni noi aiutiamo, quindi ovviamente a titolo non oneroso, un'associazione volontariata che partecipa alla fiera con i propri prodotti artigianali fatti dagli orfani e dalle vedove di guerra, e loro vengono qui, noi chiaramente li ospitiamo per vendere questi prodotti, e poi a rientro nel loro paese. Allora serviranno per portare avanti. Aiutare queste famiglie disagiate. E quest'anno abbiamo anche un'altra novità, il Kenya, diciamo che sono 3-4 anni che viene con questa associazione. Sì. Quest'anno abbiamo invece un'associazione addirittura da Ruanda, più che un'associazione è un gruppo di artigiani che arrivano qui a Bari, noi insomma sono 3-4 mesi che abbiamo curato molto questa partecipazione perché ci tenevamo molto alla loro presenza. È un progetto finanziato dall'Agenzia delle Nazioni Unite, sempre per i rifugiati di guerra. La prima volta quest'anno c'è la presenza anche dell'ONU, dell'Alto Commissariato ONU, sempre una campagna informativa per i rifugiati. Quindi insomma diciamo che abbracciamo un aspetto commerciale, sì, e anche un aspetto di umanitario, di solidarietà, un motivo che in è sempre più fondamentale in queste occasioni. Certo, un motivo in più insomma per visitare anche la Fiera del Levante. Infatti, insomma, di dare un aiuto insomma a questi paesi. E un'altra novità di quest'anno, oltre al Salone dell'Artigianato, abbiamo un salone enogastronomico. Enogastronomico estero, quest'anno per la prima volta abbiamo questo spazio espositivo a livello istituzionale, infatti abbiamo delle partecipazioni di ambasciate e si sono presentati con i loro tipici prodotti, quindi abbiamo quattro paesi, è un inizio, diciamo che è un anno zero, sì, e speriamo si comincia, che da qualche in parte futuro, bisogna cominciare, esatto, no? Stiamo dando delle novità, così come insomma nell'ottica del cambiamento quest'anno della Fiera del Levante, anche noi col nostro aspetto internazionale incominciamo questo percorso. Ecco, Francesca, c'è una città ideale dove vorresti andare a vivere? Ma io sono affascinata dal mio vecchio viaggio per lavoro a Beirut e vorrei andare a vivere a Beirut. Sembra strano, ma è una città che mi ha lasciato un qualcosa nel cuore. Anche senza togliere niente a Bari. Bari rimane sempre nel mio cuore. Ecco, Bari rimane sempre nel mio cuore. Però ecco, nel mio cuore conservo Beirut. È un ricordo che tra i tanti viaggi che ho fatto all'estero mi ha colpito. Ecco, spesso è così. Quando si scoprono dei posti, poi sì, alla fine... Sì, qualcosa di particolare che si viene colpiti e non si può cancellare. Grazie Francesca, buona grazie domenica. A voi, grazie a voi. E intanto allora insomma, andiamo avanti con i nostri ospiti e con cercare di capire appunto quali sono le città, ce ne sono tantissimi, i messaggi continuano ad arrivare, c'è chi dice Lisbona, il Portogallo, e allora proviamoci con Claudia Cucchiarato. Claudia, buona domenica. Buongiorno, ciao. Ecco, è una giornalista che ha deciso a un certo punto di andare a vivere non in Portogallo ma in Spagna, infatti vive Barcellona che è un'altra delle grandi città del desiderio dei giovani, no Claudia? Sì, ecco. lo è stato cosa... soprattutto anni fa, adesso sì. Un po' meno. Ma adesso un po' meno, ma credo per un problema di economia, credo, non per la città in sé, se non mi sbaglio. No, no, anzi, diciamo che fino a 4-5 anni fa riuniva tutte le caratteristiche ideali, diciamo, della città ideale, Barcellona. Da 4-5 anni a questa parte il problema di trovare lavoro è diventato un problema abbastanza grosso, quindi diciamo che i nostri connazionali, soprattutto italiani giovani, che avevano voglia di fare un'esperienza all'estero, e ecco, Barcellona era la prima. Esatto, io in qualche modo faccio un'associazione più che altro colorata, ecco, se posso usare questo aggettivo. Cioè io associo Barcellona e Berlino, nel senso che le vedo entrambe due città estremamente vive, no? Dove l'arte è messa un po' al primo posto, o comunque tra i primi posti delle possibilità. E per questo faccio un po' questa associazione, anche se sono due città chiaramente molto diverse. Però forse adesso ci si sposta un po' più verso Berlino, perché il lavoro ci sono più opportunità, ma è anche vero che lo spagnolo credo che sia più facile da imparare rispetto al tedesco, no? Ma sì, in realtà Berlino adesso è la città che era praticamente Barcellona fino a 4-5 anni fa, o che è stata Londra negli anni 90, sì. O Parigi. E il fatto è che Berlino non è che abbia o offra molto lavoro, in realtà è la città della Germania con il maggior tasso di disoccupazione, e quello che offre sono prezzi imbattibili. Sì, infatti ne parlavamo proprio prima con il nostro ospite, diceva sì. Si riesce a stare a Berlino molto tempo spendendo poco, e quindi questo dà la possibilità di conoscere la città molto bene e quindi poi cercare di capire anche se uno poi così possa scegliere di andarci a vivere. Ma torniamo a questo punto a Barcellona, anche perché tu vivi lì. E, tu in questo momento comunque tu consiglieresti di vivere la città, di provare a cercare qualcosa, o è proprio il momento è sbagliato, Claudia? Ma io credo che il momento non è mai sbagliato, perché la decisione deve partire da una persona, nel senso, se tu hai voglia di fare un'esperienza, senti che ne hai bisogno e che devi andartene in qualche modo, sì, io certo. Non mi sento mai di sconsigliare nulla. Infatti a Barcellona in questo momento può essere veramente difficile trovare un lavoro, ma c'è chi il lavoro se lo inventa. E quindi anche qui queste cose, per esempio, sono molto ben accette. Chi quindi in succedono. E fonda dici... un'agenzia, un'impresa, qualsiasi cosa, nel senso, io lo consiglierei ancora, soprattutto perché a me Barcellona piace molto e credo sia una città che ancora offre possibilità per chi ha voglia di Ecco, poi i periodi storici cambiano anche, non è mica rimane così per sempre, insomma, adesso è così, ma le cose sicuramente cambieranno e indubbiamente in meglio, per cui è comunque una città da provare, come dici tu. E, tra l'altro tu hai anche un sito, un blog, si chiama vivoaltrove.it, e, sottotitolato Giovani e senza radici, gli emigranti italiani di oggi, perché ti occupi proprio di questo, è un argomento che senti, cioè comunque la volontà e il desiderio anche di andare a lavorare all'estero. Hai anche scritto un libro che è pubblicato da Bruno Mondadori. E a questo punto, Claudia, a parte Barcellona, qual è l'altra città che consiglieresti di prendere in considerazione? Sentivo che prima parlavate di Lisbona, io ho un debole, è una città bellissima. Però, appunto, sono tutte cose molto personali, come dicevo prima. Io credo che uno trova il suo posto. Infatti, il sottotitolo del libro e anche del blog, questo senza radici, non si riferisce al fatto che non abbiamo radici italiane, per esempio. È il fatto che la maggior parte delle persone che io ho intervistato e che sono nel libro e che si raccontano nel blog, spesso girano e fanno esperienze in diverse città prima di trovare quella che fa al caso loro, diciamo. Io ho avuto fortuna e ho trovato subito la città. E è un po' come l'amore, no? È un po' come l'amore. Sì. Ti innamori certo sempre, poi prima di trovare la persona giusta magari ne hai sperimentate diverse prima di arrivare. Sì. Ma può andare bene subito e può anche non essere così dopo. Ti ringrazio molto, Claudia Cucchiarato, grazie ancora e buona domenica. Io appunto vi ricordo il sito che è vivoaltrove.it e anche il libro pubblicato da Bruno Mondadori. Gli aggiornamenti sul traffico con un po' di ritardo e poi ci spostiamo a Rotterdam. Devo dire che le Marche sono un luogo desiderato anche ai nostri ascoltatori. C'è Silvia Lupina che è proprio marchigiana, però ha scelto di andare a vivere a Rotterdam. Ma perché ti sei innamorata, Silvia? Perché hai scelto Rotterdam e non Amsterdam, per esempio, no? Perché insomma, sono due città molto diverse, però la più ambita forse è Amsterdam più che Rotterdam, o mi sbaglio, Silvia? Buongiorno, innanzitutto. Buongiorno a tutti, innanzitutto. Io ho scelto Rotterdam, sì, è stata una serie di eventi, a dire la verità. Innanzitutto sono architetto, per cui Rotterdam, Amsterdam, l'Olanda in genere, va bene qualsiasi città, anzi Rotterdam è un po' vista come la città che sperimenta di più, un po' più all'avanguardia, per cui forse la meta più giusta. Però per me è stato più un caso. Io sono arrivata qui con una borsa di studio per un'esperienza post laurea. Sì. E poi ho cercato lavoro, ho trovato lavoro e non sono più tornata. Ho trovato l'amore e sono ancora qui. Ecco, beh, poi sei anche diventata mamma, per cui a questo punto ormai sei legata a quello, ma meno male. Silvia, ecco, l'olandese non è proprio la lingua più facile del mondo. No, non è la lingua più facile del mondo, è anche, secondo me, l'olandese, quando sei qui ti serve, poi in realtà non serve da nessun'altra parte. Qui con l'inglese vai veramente dappertutto. Anche perché diciamolo, in Olanda si conosce molto bene l'inglese, almeno per quanto riguarda Amsterdam sicuramente, ma penso anche Rotterdam. L'inglese lo sanno bene, lo parlano bene, e quindi già con quello ci si può aiutare parecchio. Poi chiaramente vivendo lì si impara anche l'olandese. Silvia, opportunità di lavoro ci sono secondo te in una città come Rotterdam? Il discorso è questo: adesso ovviamente la crisi un po' a livello mondiale, anche qui tutto è più rallentato. Gli studi di architettura sono numerosissimi e tantissimi giovani vengono qui a cercare lavoro, però al momento si trova, se si cerca si trova, che più che altro, ecco, anche gli studi molto grandi, ma un po' tutti stanno molto attenta, per cui cercano soprattutto o persone molto con molta esperienza oppure giovani per uno stage, in modo da essere molto flessibili, da avere la possibilità, ecco, di essere, espandersi ma anche comprimersi in maniera, ecco, fra le due veloce. Fra le due città tu quale consiglieresti di provare come esperienza, Rotterdam o Amsterdam? Ma questa è una domanda molto difficile, perché sono due città molto diverse. Per quello te lo chiedevo, no? Perché scusami se ti interrompo, Un attimo, no, ma perché abbiamo, come abbiamo raccontato, non so, che Berlino comunque non è la Germania, no? Come Parigi non è la Francia. Esatto. E credo che anche Amsterdam in qualche modo non sia proprio l'Olanda. Ecco, invece è più Rotterdam, sì. E Rotterdam è sicuramente una città un po' più dura, la città del lavoro, la città, ecco, grigia, però anche molto aperta, molto ricca, multietnica, per cui le esperienze sono sicuramente diverse. Amsterdam è più la città del turismo, decisamente. Anche le persone di Rotterdam sono molto più amichevoli, molto più aperte. Ad Amsterdam sono un po' più... con la puzza sotto il naso, come dire, un po' stanchi di questo turismo di massa che va a vedere sempre le stesse cose, eccetera. Per cui io consiglierei Rotterdam, devo dire, non perché ci vivo, ma perché per vedere. No, tu dici come esperienza Rotterdam può essere più interessante, un po' come prima John Peter Sloan diceva: io se andassi a fare una scelta di vita, almeno così di esperienza in Inghilterra, John Peter Sloan diceva: io non sceglierei assolutamente Londra, perché appunto dice turistica, addirittura in inglese lo impari anche male, e invece forse meglio andare a Liverpool, a Manchester, raccontava prima, e tu dici la stessa cosa, insomma, dell'Olanda, sì, forse meglio Rotterdam, sicuramente. Sì, sono d'accordo. Poi c'è anche un'altra cosa da dire, che l'Olanda è talmente piccola che è una grande città, per cui è anche molto facile da visitare giornalmente, quotidianamente. Ecco, quindi tu dici... Si può vivere a Rotterdam e lavorare ad Amsterdam. Ecco, tranquillamente. Sì, per cui tu dici un'esperienza doppia in questo senso, sì, e quindi no, particolarmente per dire, interessante. È molto piccola, per cui è molto... è come, ecco, una grande città con vari poli, con varie esperienze. In 30 secondi, anzi 20, quanto ti manca l'Italia o le Marche in particolare, Silvia? Le Marche mi mancano molto, devo dire, tantissimo, ma io ho la fortuna di ritornare, io lavoro, ho un mio studio che si chiama Loop Design, per cui ho anche la possibilità di lavorare da lì e torno molto spesso. Bene, torno allora, a riprendermi un po' di sole e perché, insomma, familiare. Sono molto diverse le due nazioni, l'Italia, voglio dire, e l'Olanda, per cui grazie Silvia Lupini. Grazie, insomma, a voi. Ancora in bocca al lupo per la tua bella esperienza. Grazie anche a tutti voi, sicuramente alla Fiera del Levante di Bari, la Regione Puglia che ci ha ospitato e che continuerà a farlo per tutta settimana fino a domenica prossima con varie trasmissioni della programmazione di Radio 24. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, grazie alla regia di Milano, e purtroppo in questo momento non so chi ci sia, quindi non riesco a nominarlo, però grazie sicuramente. Grazie a Michele e a Davide invece che sono qui, e agli altri tecnici dello studio. Noi ci sentiamo ovviamente domenica prossima, puntuale alle 10, con Il Riposo del Guerriero, che avrà anche un po' di novità. Buona settimana da Stefano Gallarini.